America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. So she is absolutely ready to be commander in chief on day one, and yes, she happens to be a woman. Bene, continuiamo nella maratona elettorale. Michelle Obama con Hillary Clinton per la prima volta insieme a Winston-Salem in North Carolina. E devo dire, Hillary non molla. Perché? Beh, perché sente il fiato sul collo. È vero che avanti mediamente un po' in tutti i sondaggi, però devo dire che in questi ultimi giorni c'è stato un leggero cambiamento. Trump non ha mollato neanche lui. A 11 giorni è possibile che Trump riesca a cambiare qualche cosa? Beh, sentiamo cosa pensa Robbie Mook, che è uno dei manager della campagna di Hillary. Donald Trump has been going around telling people not to listen to the polls and saying that he can still win this race. Well, you know what? He's absolutely right. Ecco, affronta il tema dei sondaggi. Ne abbiamo parlato ieri. Sono credibili? Non sono credibili? E Robbie Mook, l'avete sentito, è prudente, perché in questa dichiarazione dice: Trump continua a ripetere alle persone di non prestare attenzione ai sondaggi perché sono finti, sono manipolati, e dice che potrà vincere queste elezioni, anzi che le vincerà. Sapete una cosa? Beh, ha perfettamente ragione. Nulla è chiuso fino a quando non è chiuso. E il problema però è che di razionale in queste elezioni, beh, davvero c'è proprio molto poco. Pensate, proprio l'altro giorno ero a Southampton, in questo villaggio a Long Island, a 150 km est da New York, e devo dire che lì ho toccato con mano il rifiuto della razionalità e addirittura l'incoraggiamento per una rivoluzione. Perché il problema chiave oggi qual è? Se le cose andranno male per Trump, è possibile che Trump mobiliti la sua base dicendo: queste elezioni sono state truccate, andate per le strade e fate valere quelli che sono i vostri diritti? Ecco, io pensavo che fosse soprattutto retorica, eppure ho incontrato una persona che resterà anonima, perché è una persona che ho incontrato, diciamo, in un contesto sociale, c'erano delle altre persone, e mi ha colpito che tra l'altro parlasse così apertamente di temi, come dire, piuttosto provocatori. E questo dice letteralmente, dice: se vincerà Hillary, la gente andrà armata per strada, marcerà sulla capitale, ci sarà una rivoluzione e ci sarà a bloodbath, ha detto, un bagno di sangue in America, e questo sarà il prezzo di elezioni truccate. Ecco, io sono rimasto sbalordito, perché una cosa è immaginare che qualcuno possa pensare retoricamente di dire: attenzione, perché faremo valere i nostri diritti. Un altro è sentire una persona che ti parla direttamente e che dice, con questa componente di violenza, cose così aggressive. Poi anche detto, dice: ormai il paese è ridotto malissimo, c'è gente che non si alza in piedi davanti alla bandiera. I will shoot them in the head, m'ha detto, dice, gli sparerò nella testa. Ecco, insomma, non so come reagite voi a questo atteggiamento aggressivo, ma io mi sono davvero preoccupato un pochino. Ecco, c'è anche una spiegazione che giustifica, se volete, l'uso delle armi. E lui l'ha data, ha cercato di dare una spiegazione tecnica, perché dice: se lasciate al potere Hillary, prenderà il controllo della Corte Suprema e devierà la Corte Suprema dai suoi solenni impegni per difendere la Costituzione, dunque cercherà di abolire il secondo emendamento, mi raccontava questa persona, e però sarà proprio il secondo emendamento con le milizie che rimetterà a posto l'America. Il secondo emendamento della Costituzione lo conoscete, ne abbiamo parlato quando spesso ci troviamo purtroppo a raccontare storie drammatiche di uccisioni con armi da fuoco. Ebbene, questo secondo emendamento contiene le due righe più incendiarie per la lotta politica, perché prevede che la gente possa tenere e portare armi, anzi dovrebbe averle per formare, e qui dico il virgolettato, una ben regolata milizia per garantire la sicurezza di uno Stato libero. Ecco, questo secondo emendamento non è che incita alla rivoluzione interna, era stato costruito subito dopo la dichiarazione dell'indipendenza, la firma della Costituzione, perché c'era un pericolo di un contrattacco degli inglesi. Ecco, allora la situazione ovviamente era molto diversa, ma l'interpretazione che viene data da coloro che leggono in modo assolutamente alla lettera questo emendamento è che i padri fondatori erano lungimiranti, perché sapevano che dal governo federale al governo centrale potessero esserci degli elementi di corruzione che avrebbero in qualche modo creato dei problemi o limitato la libertà del singolo cittadino nei singoli stati. Finora abbiamo avuto dei movimenti molto limitati, molto parziali. Vi ho raccontato più volte la storia magari di ribelli che si vanno a barricare in un parco nazionale perché vogliono rivendicare le terre. Ecco, ma non c'è mai stato un fenomeno come vediamo oggi, più diffuso. il New York Times, proprio il New York Times, ieri si è occupato di questo e ha raccontato che in un'inchiesta che hanno fatto in vari stati, Carolina del Nord, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin, hanno sentito una cinquantina di persone le quali senza problemi hanno sostenuto la tesi della rivoluzione se vincerà Hillary. Sentiamo, per esempio, un supporter di Trump. And there'll be a civil war. And I don't know. You think it will come to that? Absolutely. You don't understand the passion in this country. Ecco, avete sentito questo scambio? Il giornalista e il supporter di Trump. Il supporter di Trump dice: siamo pronti a una guerra civile. E quello dice: ma crede davvero che si arriverà a questo? Assolutamente, dice. Ci sono migliaia di persone che la pensano come me. Sentiamone un altro. Our kids' futures depend on this election. And I will tell you, just for me, and I don't want this to happen, if Hillary Clinton gets in, I myself, I'm ready for a revolution. Because... Ecco, avete sentito questa signora? Questa è una dichiarazione dell'11 ottobre. Da queste elezioni ci dipendono le nostre vite. Per quanto mi riguarda, se Hillary dovesse vincere, sono pronta a fare la rivoluzione, non possiamo permetterle di diventare presidente. Ecco, l'elemento comune che apparteneva anche alla persona con cui ho parlato, che non è il tra virgolette white trash, cioè questa classe bianca di persone più povere che sono pronte a combattere, a sparare, no, questo signore è un signore benestante, tra l'altro con radici profonde nella storia americana, perché i suoi antenati sono arrivati qui alla fine del 1600, sono stati tra i fondatori dell'America. Lui stesso dice: io non posso tradire i valori dei miei antenati, i quali hanno costruito questo paese, dunque dovrò combattere fino in fondo se ci saranno questi brogli elettorali. Il denominatore comune torna ad essere questo dell'imbroglio. È l'elemento scatenante per tutti gli attivisti di destra. Perché? Perché vedono centinaia di case dei sobborghi con cartelli con il nome Trump e soltanto poche con il nome di Hillary. Vedono, e questo ve lo raccontavo anche ieri, una mobilitazione popolare ai comizi di Trump e dunque non possono credere ai sondaggi che la danno vincente. La vera rivoluzione in realtà, secondo me, è quella fra le grandi campagne, le grandi pianure americane e le aree metropolitane. Ci sono due popoli americani che si scontrano e non si parlano. Devo dire, auguriamoci che chiunque vincerà la Casa Bianca possa sanare questa differenza, questa lotta, e naturalmente senza spargimenti di sangue. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, mi viene in mente, abbiamo parlato di rischio di rivoluzione, ma rivoluzione quella dura, quella col sangue per strada, come diceva la persona che ho incontrato, e dunque mi viene in mente dei The Clash. Clash, tra l'altro, è lo scontro, e questa loro canzone, beh, Revolution Rock, è appropriatissima alla puntata di oggi. Revolution rock, it is a brand new rock. A bad, bad rock, this here revolution rock. Be careful how you move, Mac, you dig me in the back. And I'm so pilled up that I right now I have got the sharpest knife, so I got the biggest slice. I got no time to do battle. Everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This your music mash up the nation. This your music cause a sensation. Tell your mom, tell your pa, everything gonna be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Gonna be alright. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye. And get going.